Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera Maurizio Calzavara. Un'ottima serata, come sempre, il mercoledì è sempre un'ottima serata, ragazzi, perché stasera aspettiamo una band che ha fatto 3 ore e mezzo di strada, ma non con molta fatica, con molta gioia, perché la musica porta gioia. Buonasera ai Manetti. Ciao. Ciao. Avete fatto un buon viaggio, mi avete detto, senza nebbia, e questo è fondamentale, positivo. Che bello, da Como fino a qua venire a suonare, una cosa positiva, suonare è la cosa meravigliosa, sì, cosa sì. Dici, Andrea? È figo suonare, sì sì. È bello, bello. È da anni che lo facciamo. Esattamente, e suonare fa sempre piacere. Visto che ci sei, Andrea, presenta anche i tuoi colleghi della band. Vabbè, ma sono capaci loro di parlare. Sì. Ciao, sono Claudio, batterista. Batterista, in ottima forma stasera, lo vedo. Vai Andrea, presenti di te ora. Poi c'è Nicolò, che è una new entry, bassista. Bassista. E poi c'è Simon, che è chitarrista. Ciao. E tu suoni la chitarra momentaneamente anche, questa sì. Cosa. Stasera abbiamo 2 chitarre acustiche, un basso e una batteria. Chiaramente questa è la versione unplugged, sì. Mica tanto unplugged, è una versione, insomma, una versione sì. Vostra. E la vostra, il vostro percorso, questo è arrivato al secondo album. Però come è iniziato l'idea di fare una band? Ma sul lago di Como non è che c'è tanto da fare. Però è bello il lago di Como. Sì, molto bello. Esattamente, ma può portare anche a fare una band, no? Sì, certo, infatti non sapevamo cosa fare. Eravamo amici, ci conoscevamo da una vita. Io e Simo specialmente. E abbiamo deciso di suonare un po'. Suonavamo in giro sul lago così. E alla fine abbiamo conosciuto Claudio, che abita dall'altra parte, dall'altra sponda, sì, del lago praticamente, sì. Quindi si deve fare sempre pendolare, sì, per venire a trovare. Pendolare no, cioè, sì, cioè pendolare nel senso, cioè traghettare, diciamo. Cioè, traghetto, diciamo, esatto, i termini del lago. Traghettare esattamente, c'è, cioè, il traghetto da una sponda all'altra, sì. Quindi, e poi è arrivato anche al New Entry lui praticamente, sì. Ma lui è arrivato nell'ultimo quando? Disco. Nell'ultimo disco, sì. Il precedente invece non c'era. No, avevamo 2 chitarre strumentali, diciamo. Così, sì. E il precedente, come è nato l'idea di fare un disco? L'idea di fare proprio un disco, come è nata? Ma cioè non è che ci siamo trovati a suonare, come ti ho detto, e sì. Niente, e poi? Dopo 5 mesi che suonavamo insieme abbiamo deciso di quagliare sto lavoro, che è uscito il primo disco. Sì. Esattamente, era un disco autoprodotto o no? Autoprodotto, sì. Chiaramente, sì, totalmente autoprodotto, sì. E il manager c'entra qualcosa, visto che questa sera è una new entry, anche lui è una new entry, grazie al manager e grazie ad Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che salutiamo. Stasera siete qua, è sì. Importante questo. Grazie a voi. È importante, importantissimo. Quindi questo nuovo disco, che è arrivato anche il bassista, quindi un disco con tutti i crismi, l'ufficialità, certo, al 100%. Certo. E l'idea di fare questo nuovo disco, le canzoni erano già pronte nel cassetto da tempo, Andrea, oppure fatte negli ultimi tempi? In realtà questo disco qua l'abbiamo fatto nel 2009, più o sì. meno, poi l'abbiamo riregistrato perché non eravamo contenti, sì, contenti dell'intenzione. Nel 2008. Ah, l'avete fatto nel 2008, adesso c'è la presentazione, tutto, c'è la presentazione. Nel 2009 abbiamo cominciato. Claudio ha precisato, devi precisare, Claudio, precisa pure. Abbiamo cominciato a riregistrare perché volevamo tenere metà di un disco, metà di un altro. Poi quando sentivamo quello che stava uscendo durante la produzione nello studio a Milano, abbiamo deciso di rifarlo tutto. No, non siete quindi vado. Siamo tornati l'estate del 2010 l'abbiamo concluso. Ho capito, cioè, quindi non eravate soddisfatti al 100% del lavoro, cioè dell'assemblaggio forse? No, non ci piaceva l'intenzione, abbiamo suonato... Come abbiamo suonato, sì. non è stato quello che volevamo. Sì. Simon, che è uno dei soci fondatori, cosa dice a proposito di questo? È il fondatore, io da solo l'ho fatto. Sì. No, che sì, non eravamo proprio soddisfatti. E poi mentre non eravamo soddisfatti provavamo ancora, uscivano sempre nuove canzoni sempre più belle e metà canzoni proprio le abbiamo scartate e adesso è quello che c'è lì sulla scrivania. Il disco è molto interessante, le avete scartate però probabilmente erano cose che potevano anche valere, forse le avete messe nel cassetto. Guarda, molto probabilmente le faremo uscire pian piano col passare degli anni, magari. No, dei mesi. Ma le suonate dal vivo queste cose lasciate nel cassetto, o no? Ma no. No, niente. In realtà no. Non valevano la pena. È stata persa la chiave. Sì. È stata persa la chiave, quindi... Cioè, in realtà diciamo che abbiamo preso col nuovo disco questa influenza, cioè adesso... oso dire pop, però in realtà non è proprio pop, se, se andate a sentire. Sì, esattamente. Cioè, prima facevamo post-rock, era più intrecci di chitarre, un po' più una musica, diciamo, da sottofondo, cioè a sottofondo, come potrei dire, se, non so, era più ambientale come musica, non so, sì. Ambientale. Adesso abbiamo sì, no, bisogna precisare. Va bene, ok. Ok, quindi ambientale, sì. Però dopo, niente, però questo disco qua invece è molto cantato, infatti però ci sono tre pezzi strumentali, okay, in ogni caso. Sì, per far capire da dove veniamo. Ecco, cioè, esattamente. Quindi sì, arriviamo dal post rock, così in realtà riprendono le lunghe suite, allora. Primo album. Avevate le lunghe suite del post rock. Lunghissime. Lunghissime suite. Beh, dal vivo si fanno anche le lunghe suite. Sì, fino a un certo punto. Fino a un certo adesso punto. Basta però. Okay. Troppo lunghe le abbiamo fatte. Benissimo, allora no, senti. Ok, 22:10 abbiamo presentato la band, abbiamo presentato i concetti, ma avremo tempo fino a mezzanotte per ampliare i concetti. Abbiamo deciso di fare aprire la nostra solita finestra, grazie a Michele Tosone che è in regia, che vi guiderà fino alla mezzanotte. La prima traccia che avete scelto del disco, vi ricordate che la traccia è? La numero 2, mi dice Michele. Sì, che sarebbe la You and I and the Screaming Trees, che è il è nostro singolo. Primo singolo. Che è un pezzo molto bello, che io ho scelto come pezzo trainante per un mese consecutivo. Grazie. Mi è piaciuto parecchio. Lo sentiamo e poi voglio sapere come è stato costruito, ok Andrea? Sì. Benissimo. You and I and the screaming trees. Thank you. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Adesso Andrea mi diceva, microfono spento, che c'è una particolarità su questo titolo, vero? In che senso? Cioè, tu dicevi and, You and I and the Screaming Trees. Non doveva essere Screaming Trees o una cosa sì, di questo realtà, genere? Sì, cioè, siamo molto legati alla scena anni 90, certo. Cioè, riguardante il grunge, quella scena lì. Cioè, noi avremmo anche messo Nirvana, solo che non ci stava nel pezzo. Quindi niente, questa qua la cioè, non è una particolarità. È un aneddoto, una è una chicca, possiamo dire, una chicca. E diciamo allora come è nato questo pezzo, come si è sviluppato. Parlavamo sempre a microfono spento, poteva essere un aggancio col disco precedente, solo che ci avete messo le parole e l'avete ampliato. Cioè lo strumentale forse sottofondo c'era, ma poi la struttura è stata leggermente, decisamente cambiata, come è giusto che sia. Ma è nato come tutti gli altri pezzi, eravamo lì in saletta che provavamo. Ho provato a fare un accordo, una linea melodica con la voce così, è piaciuta e niente. Secondo me è un pezzo molto molto bello, molto accattivante, che ti prende, secondo me, subito, immediatamente, senza tanti giri di parole. A me è piaciuto particolarmente, quindi positivo al 100%. Quindi in poco tempo l'avete creato, mi dicevi Andrea. Ma non in poco tempo, cioè l'idea è, cioè in realtà il tempo non mi ricordo quanto è che ci abbiamo messo, però sì, però realtà Simon Simon parla l'arpeggio di sì, no, mi ricordo proprio quel giorno lì che c'era questo arpeggio, quel giro di chitarra, no, che l'avevo, non so, da tantissimi anni, tipo 10 anni che c'avevo, ma non mai usato. E lì tra un momento e l'altro ho iniziato a farlo e mi ha detto, ma cazzo, una figata, e subito dopo è venuto fuori praticamente il pezzo. Si è composto. E in un paio di prove l'abbiamo semi chiuso, poi in studio, non era ancora proprio finito, quando eravamo in studio abbiamo proprio gli ultimi accorgimenti e così. Ho capito, quindi un pezzo, cioè è una battuta che era 10 anni che girava oppure la realtà? Ma no, io veramente, poi quel giorno non me lo ricordavo più, quel giorno ho detto cazzo, ma io facevo una roba così. Ho capito. Vabbè, in realtà l'arpeggio di chitarra. La canzone. No, non la canzone. L'arpeggio di chitarra era da 10 anni che l'aveva. Ah, ho capito. La canzone è nata l'anno scorso. Ah, benissimo. Quindi l'arpeggio di chitarra già un po' di tempo, poi l'avete sviluppata, l'avete ampliata. Sì. Ok, siamo alle 22:17 e l'ora giusta per iniziare a suonare. Che cosa, Andrea e compagni? Facciamo la AM Summer Trio. Ok, benissimo. Come on, let me know. Sit down in the dark. Come on, don't you know? Nothing else before. Come on, let me know. Nothing else before. You bring me down, you bring me down, no, I can't believe you. You bring me down. Bring me down, no, I can't believe you. You bring me down, you bring me down, no, I can't believe you. So I feel of you. Come on, let me know. Sit down in the dark. Come on, don't you know? Nothing else before. Come on, let me know. Nothing else before. You bring me down, you bring me down, no, I can't believe you. You bring me down. You bring me down, no, I can't believe you. You bring me down, you bring me down, no, I can't believe you. So I feel of you. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Benissimo, abbiamo sentito questo pezzo. Bello, bella, bella impostazione, è stato proprio fatto bene. È un po' dark, secondo me, Andrea. Sì, abbiamo quelle influenze lì, cioè specialmente dello Smith. Esattamente. Robert Smith è una cosa. Meno è una delle mie influenze più evidenti. Poi Cure, praticamente. Sì, sì. Ami particolarmente i Cure. Ma in realtà non è che li ho scoperti anche tardi, però ho scoperto di avere i gusti simili. Non so. Beh, non c'è niente di male. No, scherzo, lui è il re. Simon, sempre lui. Anche Simon ama i Cure o solamente? Ma sì, penso che gli piacciono anche a lui. Sì, sì. Li amiamo tutti. Un metodo di paragone per tutti. Sì, sì, no, uno dei nostri gruppi preferiti, senz'altro. Sì, sì. Beh, io me li ricordo, dimmi. Che li ascoltavo in prima media. Li hai visti qualche volta dal vivo? Sei andato a vederli 5-6 volte. Io ero un feto quando primo concerto nel 95 a Sonoria sotto l'acqua. Ma lui ha la capacità di generarsi completamente ad ogni disco, nonostante che anche adesso abbia una certa età, dischi ne ha fatti talmente tanti, però ha sempre qualcosa di nuovo, anche se però secondo me, non so se siete d'accordo, il gruppo che fa sempre qualcosa di nuovo sono i Pearl Jam. Ad ogni disco cambia. Io non sono d'accordo. Non sei d'accordo? No. Tiriamo fuori una polemica adesso. I Pearl Jam hanno sempre cambiato. No, non è no, vero. Tu dici di no. Sì. Io sono fan dei Pearl Jam, però non dici, è sì. Secondo dici, tu dici di no. No. Cioè, chiaro, vabbè, non sono uguali gli album. Non è che cambia solo la copertina, però vabbè, non sono diversi. Non sono diversi. Cioè, hanno sempre una grinta. Allora, hanno la caratteristica di cambiare. Hanno avuto la voglia di cambiare, qualche volta non sono riusciti. Sì. Beh, insomma no. Beh, insomma, in caso è un bel gruppo, possiamo dire. Sì, sì, beh, certo. Possiamo essere d'accordo sì, tutti. Sì, concerto più bello della mia vita, quindi. A proposito di concerti, voi amate... Posso dire un gruppo, dimmi. Che secondo me... Dai, spara. Ogni anno no, perché in realtà sono stati fermi. Cioè, secondo me è un gruppo figo in Italia, cioè che sempre, ogni album ti dà sempre quella... Cioè. Come si dicesse, aiutami. Quel quid, quel modo diverso. Sono i Verdena, che è un gruppo italiano. Loro cambiano. Cosa ne pensi dell'ultimo doppio album di Verdena? Il loro white album, secondo i critici? Cosa ne penso? Wow! Appunto, è proprio quello. Ne pensi benissimo, insomma. Quanti volte li hai visti, Verdena? Ne avrò visti quest'anno 6 volte, però, più o meno, sì. E crescono sempre di più, questo è vero. Soprattutto tutti quanti, io ho sentito... Ma erano già cresciuti nel 99. Però avevano avuto un momento di stasi. Hanno trovato la completezza. Hanno trovato la completezza. Un gruppo indie italiano, ma non soltanto indie. Hanno portato avanti certi discorsi. Sono arrivati a... Loro hanno inciso per la major, dobbiamo dire questo. Sì, però hanno fatto musica a 360 gradi. Sì, hanno fatto musica a 360 gradi, anche se la mamma ha un'etichetta alternativa, ma loro incidono per la major. Sì, la Jesca. Non bisogna dire che questi pezzi non sono, cioè, sono underground. Sì, sono d'accordo. Tendenti al 100%. Sono d'accordo, non hanno peli. Sono usciti per una major. Sì, sì, ma sono usciti per la major, ma non hanno peli sulla lingua, quando devono suonare suonano. Sono dei cristi. Esattamente, molto molto interessanti, sono bravi, disco nuovo e decisamente interessante, forse uno dei migliori, forse il disco più indie italiano, il più interessante dell'anno, qualcuno avrà detto. Sì, sì. Cosa ne siete d'accordo? Ma ne sono usciti in realtà. Sì, ma di quei livelli là. Dal mio punto di vista era un sacco che non ascoltavo un disco per così tanto. Di un certo livello così. Di un certo livello, ma per così tanto tempo nel e c'è ancora giro di fare un doppio album, non è semplice. Ma poi non è neanche l'unico di quel livello che hanno fatto. Sì, questo è vero. Però il doppio album è l'unico, non hanno fatti altri. No, sì, sì. Comunque anche solo i 3 Allegri Ragazzi Morti con Primitivi del Futuro è stato anche quelli. Un gran bel disco quello. È stato un'evoluzione. Sì. A proposito di 3 Allegri Ragazzi Morti, ci sono dei collegamenti, Andrea, con i 3 Allegri Ragazzi Morti? Sì, lavoriamo. Diciamo. Lavoriamo con loro? Sì, lavoro con loro. Ho fatto un anno e mezzo di tour con loro. Ah, sì. Come si fa il tour con i 3 Allegri Ragazzi Morti? E come si fa? Sì, cioè, come si prende, ci si sente? Come? Ci si alza la mattina presto dal lago di Como e molto presto. Via, si arriva fino a Pordenone. Vabbè, dipende. Cioè Pordenone è veramente lontano. Precisamente. Quindi ci si alza all'alba e si parte in treno, se non in traghetto. E via, e si arriva là. Si arriva lì. Poi loro hanno un'etichetta molto interessante, la Tempesta, che sta portando avanti un discorso estremamente interessante. Tra l'altro il 3 dicembre ci sarà la notte della Tempesta al Rivolta di Mestre. Quindi qui vicino, se qualcuno vuole andare il 3 dicembre. Sì, sì. Benissimo. Sentiamo un altro pezzo da disco, cosa dite ragazzi? Che traccia avete scelto, ti ricordate? Possiamo sentire la A. Henry Winkler. Grazie, era Michele che abbiamo scelto. Il numero 6. Il numero 6 è la Harry Winkler. Perfetto, la sentiamo e poi ne parliamo ancora, ok? Va bene. Abbiamo sentito questo pezzo, A. Henry Winkler. Parliamo con Simon di questa chitarra ipnotica, soprattutto nella parte finale, un po' cupa secondo i critici, giustamente cupa, ma abbiamo parlato del dark, ma dark nel senso più ampio del termine, vero Simon? Vai. Cosa vuoi sapere? Vuoi sapere come mai questo arpeggio finale? Perché l'avete fatto così, un po' psichedelico? Ah, Dopo che sono tornato dall'Africa è nata questa canzone. Ecco. Non saprei cos'altro aggiungere, Maurizio. Ma io in realtà ce l'ho una spiegazione. Dimmi la spiegazione. Cioè, noi veniamo da posti veramente tristi. Mm. Cioè, il lago di Como d'inverno. D'estate è pieno di nebbia. Mm. Ci sono turisti, no, così. Non neanche tanto. Però d'inverno è veramente uno dei posti, penso, più tristi che ci siano in Italia. Sì. Cioè, è malinconico. Malinconico. E quindi la malinconia nel nostro disco è una è dovuto anche a questa? Insomma. È dovuto sicuramente perché veniamo anche dal lago di Como. Per quello che noi vi facciamo una testa così del lago di Como. Perché con la pozzanghera. Ma è un pozzanghera un po' grande. Sì, come se non ci fosse il lago di Como, e abitavamo, non so dove. Dov'è che a Sesto San Giovanni. A Cordenonce. Abitavamo a Cordenonce. Cioè, magari facevamo un disco reggae. Ah, non certo, so. è vero. Vuol dire che dal punto di vista l'ambiente, cioè, le condizioni ambientali influenza. Sì, secondo me sì. Cioè, la senti la. Beh, lo senti il lago. Sì, lo senti, però questo era un bel pezzo, indipendentemente dal lago, dal tuo. No, ma è positivo il lago. Cioè, è positivo nella negatività. Ecco, è un po' una... positivo nella negatività. No, il pezzo è molto interessante, è psichedelico, con un andamento un po' avvolgente, posso dire questo, non so se siete d'accordo. Ma lui piace giocare con i rumori. Non vuole parlare, adesso facciamo parlare un poco. Ma mi piace fare un po' di rumori lì. Era tutta pulitina. Alla fine ho detto: vabbè, mettiamo questa cosa. Ma all'inizio era pulitina. Cioè, com'è nato questo pezzo? L'hai scritto te o l'hai scritto Andrea? O assieme tutti quanti? Le canzoni le. Arrivano così, cioè siamo in saletta. Uno Claudio voleva dire qualcosa. Le canzoni noi ci mettiamo a suonare in saletta e nascono le canzoni. Ah, ok, non c'è un autore principale. Uno si sviluppano dà un delle idee, magari da quella persona può partire un altro input, e di conseguenza la canzone si evolve in un'altra maniera. Possono rimanere mesi lì, come adesso, come anche. Possono succedere che ci mettiamo a suonare, nascono le canzoni in un attimo. Cioè in un baleno praticamente subito. O può essere che succede che le canzoni. Ma no, è anche capitato che una canzone nasceva durante un soundcheck. Quello sì è positivo. Qualche volta le canzoni nascono anche quando si fa. Una volta. Una canzone, la Trey Spotting, l'abbiamo mica composta. No, qual è che abbiamo composto in montagna su a Prato Valentino a 2000 metri ormai? È bello, è positivo. Abbiamo montato quella che abbiamo fatto prima in acustica. Ah, quello l'avete composta là? Beh, è già positivo. Ma qualche volta le canzoni si compongono anche mentre si suona dal vivo? Sì, infatti nel sound c'è così. Noi avendo un super fonico. Che sei Gigi, te? No, io sei te. No, beh, sì, sono super anch'io. Però lui è molto più super di me. Si chiama Gigi, è stato anche il produttore del nostro disco. Diciamolo, lei. Sì. L'abbiamo registrato al Morbid Sound Studio con anche la mia assistenza, diciamo. Mm-hmm. Cioè, io sono il secondo, dai. È così. Lui è il mio capo. Chiaramente. Ovviamente, avendo sto gran fonico così, ci possiamo permettere di provare i pezzi nuovi durante il soundcheck. Ah, noi ci capito. Mettiamo sul palco, iniziamo a strimpellare, nasce il pezzo e lui intanto, quando finiamo smanetta. Così, smanetta e riesce a trovare l'input giusto, che è una cosa positiva. Sì. Citiamo anche l'etichetta, visto che ci siamo. Sì, la Sangue Disken di Barnaba Ponchielli, che è un ragazzo di Milano. Che ho conosciuto per caso sui Navigli. Dimmi, perché io ho letto come l'hai conosciuto. Cioè durante è stato un aperitivo così. Si è innamorato del vostro sound praticamente. Sì, non si sa come, però si è innamorato. Sì. Allora ha deciso di farvi incidere il disco. È una cosa molto positiva. Sì. Ok, 22:34. Visto che mi avete raccontato che i pezzi sono molto dilatati, quelli fatti dal vivo, è avanti di un'ora, se non ti preoccupare. È avanti di un'ora, però sono sempre le 22:34. Allora facciamo un altro pezzo dal vivo. Come lo volete fare? Chiaramente il titolo del pezzo dal vivo che fate adesso in questo momento? Trainspotting. Ah, che è quello che apre il disco praticamente. Sì. And now I got a feeling that you're beating me in the crowd. I know you have no reason, anyway I threw you out. I know that all your problems can be eaten in your life. It's getting unforgiving, what you need is going out. Remember me, remember me my friend. Your shoulder life is silly. Remember when you born. I know you have no reason. Anyway, don't stay alone. It's night and try to sleep and to die by drug abuse. Because tomorrow is coming. Because nobody knows. Remember me. Remember me, my friend. Remember me. Remember me, my friend. Remember me. Remember me, my friend. Remember me. Remember me, my friend. No, I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. You know I got really, and I'm singing it for sure. Radio Rock Wave, l'onda del rock. E lo so che avete caldo, ragazzi. E se batterista dici Claudio di andare con calma, no, ma è caldo per quello. È caldo per quel motivo. Beh, il pezzo era molto bello perché era molto pop. Grazie. Secondo me, Andrea. Sì, questo qua è una delle influenze del disco nuovo. Esattamente, perché il disco precedente era un po' diverso, era strumentale. Quindi, se un disco strumentale, poi l'introduzione del bassista a tempo pieno dà una certa svolta al disco, sicuramente, vero Andrea? Parlo anche con gli altri, poi possono, anche Claudio può parlare, visto che vuole parlare adesso. Dimmi, non vuoi parlare? Non ho niente. No, la svolta del basso, l'introduzione del basso ha dato una svolta al disco. Vabbè, sì, era da tempo che lo chiedevo. Perché suonare la batteria senza il basso vuol dire no, mi stancava una cifra certamente, quindi avevi sotto pressione, eri sotto pressione due volte, dovevo fare due perché per far rendere dovevo spingere una cifra è chiaro, senza il basso, e invece con il basso adesso cose... posso fare anche cose più tranquille perché ero abituato a farle, però se devo aprire riesco a aprire ugualmente. Quando aprite i concerti, come li aprite? Il primo pezzo che fate per aprire un concerto? Ma di solito partiamo col pezzo più incazzato che abbiamo. Più duro praticamente, esattamente, più violento, più rumoroso, che può far muovere la gente che è là che vi assiste. No, proprio per avere un po' di adrenalina. Esatto, e serve l'adrenalina su una musica rock, assolutamente fondamentale. Io ricordo l'adrenalina che aveva Bonzo con i Led Zeppelin. Aveva un bel po' di adrenalina. Ci capiamo. Esattamente. Benissimo, questo era un pezzo molto interessante. Ripeto, pop, tendenzialmente pop, perché la melodia fa parte anche del vostro bagaglio, Andrea. Sì, certo. Non è una cosa così lasciata ma no, da parte. Cioè, anzi, in realtà, dimmi, la melodia è una delle, secondo me, delle robe più importanti che abbiamo. La chiave di volta, di lettura del vostro disco. Cioè, che ci rende... siamo tra virgolette, cioè non siamo pop, perché alla fine se viene a sentirci dal vivo, cioè siamo un gruppo anni 90, come potevano essere, come sono i Madone. Quali che periodo i Madone? Vabbè, non lo so, quelli vecchi, anni 80. Ma in realtà li ho visti anche recentemente, 2002, può darsi. Sì. Erano belli marci. Ed erano belli, marci. Facevano valere anche. Sì, facevano valere, però avevano sì dei momenti in cui può darsi che si poteva anche parlare di pop, però dei piccoli momenti. No, ma no. Piccoli momenti. Sì, sì, ho capito cosa volete. Sì. Ok. E sì, l'introduzione del basso, adesso suona, il tuo nome non mi ricordo più. Niccolò. Esattamente, lo suona lui. Nel disco chi lo ha suonato il basso? Nel disco si è proposto Enrico Molteni. No, in realtà glielo abbiamo chiesto noi. Ma ha detto, dai, proviamo a vedere cosa succede. È venuto un paio di giorni, ha fatto... In realtà ha registrato quasi tutti i bassi, non tutti, però adesso non mi ricordo quanti pezzi, comunque la maggior parte. E niente, gli è piaciuto subito il progetto, alla fine si è trovato anche bene, gli è venuto facile suonare. Quindi senza nessun problema, via, si è inserito immediatamente, esattamente. E dopo ovviamente nel live così, cioè adesso non dico, cioè lui ha il suo progetto, noi il nostro. Certo, certo, sì. È giusto che sia così. Quindi abbiamo dovuto scegliere il miglior bassista del lago di Como. Cioè, abbiamo fatto in realtà un cast così, un po' la X Factor così. Sì, sì, l'avete fatto. Abbiamo provati, fai quanti erano? Bello, è stato umiliante. Sì, è stato umiliante. Quante volte avete provato? Quanti bassisti hai provato, Andrea Pettivari, Nicolò? Ma io una sessantina, cioè Belva dice ma una decina, li ho provati per loro. Ma io me ne ricordo una decina. Beh, no, stiamo scherzando, sì, siamo andati a colpo chiaro, sicuro. È chiaro, è chiaro, cioè, sapevamo che lui era il migliore. No, ma noi ci conosciamo da tanto tempo. Certo, certo. Ma tu facevi qualche altra proposta con qualche altro gruppo, Nicolò? Sì, sì, però io sono chitarrista, non sono bassista. Non sei bassista, sei bassista aggiunto qua praticamente. Sì, però hanno iniziato, cioè stranamente lo odiavo. Il basso, cioè non è che lo odiavo il basso, però diciamo è sempre stato un po' sulle scatole. Ma ti diciamo. Sei inserito bene subito con i Vanetti, con gli altri componenti. Sì, veramente. Certo. No, ma appunto poi col fatto che li conoscessi. Sì, già, cioè, già una certa conoscenza prima. Sì, sì. Sì. Diciamo che era uno dei fan numeri uno, Nick. Cioè, veniva sempre a vederci quando suonavamo. E quando il primo disco è solo strumentale, come vi comportavate dal vivo sullo strumentale? Prendevamo gli strumenti e abbassavamo il microfono oppure li pestavamo per terra. Se suonavamo magari dopo un gruppo che cantava, prendevamo il microfono, lo lanciavamo e iniziavamo a suonare. Ma lungo e suite praticamente? Come? Lungo e suite praticamente? No, ma, non neanche tanto. Insomma. Sì, cioè i nostri pezzi sono sempre stati... Allora, c'erano pezzi lunghi, magari anche da 5-6 minuti, però abbiamo sempre avuto quella forma di canzone lì un po' ristretta. Sì, ristretta. Sì, cioè radiofonica, diciamo. Certo, certo, capito. Quindi c'erano dei pezzi strumentali lunghi e pezzi strumentali radiofonici. Radiofonici. Da 3 minuti e mezzo, 3 minuti. C'erano una manata, comunque, facendo post-rock. Bene. Non erano suite chissà quanto dilatate. Esattamente. Erano, però dal vivo c'è anche la tendenza di fare qualche volta i suite dilatate o no? Sì. Piace o no? Sì, sì, piace. Perché ogni esponente della band può variare, batterista, chitarrista, bassista e te. Beh, viene. Viene spontaneo, secondo me. E non è una cosa negativa. Qualcuno dice, qualcuno che segue il concerto ci può anche stancare. I ragazzi non si sono ancora lasciati andare. Ho capito. Hanno tempo sicuramente. Sì, sì, sì. Bene, 22:43, abbiamo ancora tempo, sì, chiaramente, anche per sentire un altro pezzo da disco. Che numero sei, Michele, ti ricordi? La traccia numero 10. Adesso ne parliamo prima stavolta. Sì. Me la puoi descrivere? Allora, se riesci a ricordarmi il titolo. Eccola qua. Allora, La Dark è una, tra l'altro, delle mie canzoni preferite. Qui sentirete, secondo me, l'influenza dei Cure. Bene. Che parlavamo prima. Certo. E che periodo dei Cure? Disintegration. Ah, cioè. Quindi hai citato il disco che amo particolarmente. Sì, è anche uno dei miei preferiti. Disco meraviglioso, sì. Una parabola psichedelica della band. Ok, lo sentiamo adesso. Somebody's action. Abbiamo sentito Dark, un pezzo proprio molto interessante, molto oscuro, no? Al di là che c'è scritto Dark, al di là che è stato scritto, è stato messo nel cassetto per un po' di tempo, però è un pezzo, non dico trascinante, fa pensare, secondo me, musicalmente parlando. Adesso parla sia Andrea sia Simon. Simon, perché sono andato il basso qua, vero Simon? Più. Sì, ho suonato il basso perché secondo noi ci voleva il basso, non avevamo il bassista, quindi l'ho suonato io. Ma bisogna dire una cosa, che già in quel periodo lì stavamo cominciando a comporre con il basso, sì. Perché il basso mancava e quindi si alternavano gli strumenti, sì, Andrea e Simone. Ok, allora però qui ci sono due chitarre, sia di Andrea che di Simone, e la coesione fra le due chitarre dà un certo sound, un certo suono. La Cure, sì, ma non soltanto la Cure, Andrea, un suono vostro, poi tutto la Cure è solamente punto di riferimento, sì. Poi il discorso vostro si sviluppa, si allarga, perché è un pezzo molto, può essere allungato a dismisura, secondo sì, me potremmo tenerli lunghi 20 minuti, esattamente, volendo. Come si usava una volta, sì, ma chi è che glielo dice alla gente dopo? Ma sì, sono d'accordo, la gente si può spazientire indubbiamente, però quando uno è sul palco, sai, se fa entro determinati limiti, anche se gioca, sì, noi ci teniamo, però perché la nostra regola sarebbe di fare, cioè, veramente i pezzi più allungati, così di improvvisare, così in questo disco specialmente Claudio, a lui piace, cioè in saletta quando parte a suonare, così andiamo dietro, stiamo delle ore magari a svarionare, sì, a creare proprio, cioè potrebbero essere 10 pezzi in quella session. In realtà in questo disco abbiamo voluto, io e Simon, cioè tenere proprio i pezzi, siccome leggermente un po' più musicale, melodico, tenere i pezzi un po' più corti e basarci a rifarlo dal vivo uguale, diciamo. Ma il vostro capo, cioè il tuo produttore, il vostro produttore, ha detto anche lui, vi fermate ragazzi, non allargate, oppure vi ha lasciato andare? Ma il ruolo di Gigi in studio è stato quello di, noi gli abbiamo portato il pezzo, sì? Tutto Dark, sì, e parliamo di Dark. Ma le canzoni erano già fatte, erano già fatte. Però lui è stato a dire, mentre stavamo registrando, abbiamo fatto una preproduzione nella nostra saletta, l'abbiamo portata, l'abbiamo fatta sentire, niente, lui è stato, ci ha consigliato, cioè delle cose, guarda, secondo me qui potrebbe esserci due giri in meno, guarda che non serve fare sta roba qui, cioè tutte, ha prodotto un po'. Cioè, fatto produttore artistico, vi ha dato una mano anche dal punto di vista là, insomma, praticamente sì. Vi ha dato una strada e vi ha indirizzato una strada, sì. Ci ha fatto il suono, ci ha fatto Manetti, il suono. Diciamo, esatto, che sentirete sul disco, sul disco, chiaramente, e anche il suono che porterete chiaramente nelle prossime puntate quando andrete fuori dal vivo, chiaramente. A proposito dal vivo, negli anni precedenti avete suonato per 150-160 date, avete fatto all'inizio di carriera, parlo, non c'era ancora il bassista, sì. Ma tante date, 150. Beh, forse un po' meno, tipo 140, beh, sono tante, Andrea. Sì, sono tantissime. Suonavamo tipo in due quasi anni. Tutti i weekend, sì, comunque, sì. A feste così, cioè, a volte c'erano. Dimmi. O anche bar del cavolo, sì, ci chiamavano, avevamo bisogno di soldi, ci facevamo pagare, ma non importa, ce ne poteva proprio niente, perché avevamo bisogno dei soldi, ma è giusto per poter andare a suonare ma è importante, vi avete fatto nome praticamente suonando continuamente dappertutto, perché sì. Bisogna suonare, non ancora suonare davanti a tanta gente, si può suonare anche davanti a poca gente, non vuol dire assolutamente nulla, bisogna suonare al di là di questo, secondo me, io la penso così, sì. Bisogna sempre andare a cercare di suonare, di farsi sentire in qualsiasi posto. Mi dicevo, all'inizio c'è stato un problema, nel senso che quando non c'era la gente, capitava che i miei due compagni di rock and roll se ne andavano. No, si prendevano male perché non c'era la gente, al che ho dovuto dirgli di fottersene, perché se ci sono anche solo 5 persone che vedono un concerto e spacchiamo, magari la volta dopo, certo, portano giusto. Altra gente a sentirci. Giusto, sono d'accordo con te. Bisogna comunque perseverare. Abbiamo anche provato a suonare due volte a sera, cioè proprio robe da pazzi. Cioè c'era alle periodo... 5, alle 10 oppure... Sì, c'era tipo, mi ricordo questo concerto qua che... Abbiamo montato in un castello. Sì, alle 6 tipo abbiamo suonato in un posto, e alla sera tipo alle 11 abbiamo risuonato in un altro posto, in una baita in montagna. Sì. Bellissimo. Sì, robe da pazzi, io non lo rifarei. Stanchissimi adesso. Però. Sì, perché portare il nostro backline è veramente dura. Che backline avete? Ma chiaramente stasera in fase acustica è molto piccolo. Sì, sì, un backline molto pesante. Sì. Infatti per quello che dico. Beh, ok, qui non, però la musica non è molto pesante. 22:54, adesso suoniamo un pezzo che avevate deciso qualche minuto fa, prima di Rock and Roll Night. Rock and Roll Night, che è la traccia numero 3 del disco. Io l'ho considerato un altro pezzo, qualche critico l'ha considerato un pezzo estivo, ma anche può essere anche un pezzo invernale, un pezzo vostro e basta. Ok. We come so far away, we don't care about it. Another place, another show, and everything is okay. Take me down by the river, take me down, I'm just looking somehow. 12-hour rock and roll night. Take me down by the river, take me down, I'm just looking somehow. 12-hour rock and roll night. We are so very tired, we're living for another town. Another trap, another crowd, we're feeling lost for a new show. Take me down by the river, take me down, I'm just just look this so mouth. To have a rock and roll night. Take me down by the river. Take me down and just look this so mouth. To have a rock and roll night. Ok, succede anche questo, sei rotta la corda, la diretta, Simon, cosa dici? È il bello della diretta. Sei rotta la corda della chitarra, che bello, cosa che capita, vuol dire che sei suonato con Andrea, ha dato tanta forza al discorso che sei rotto la corda. Ma forse perché non le cambiavo da 2 anni. Ecco, può darsi, forse di più. Può darsi che sia questo il motivo. In caso, anche questo è un pezzo molto interessante. Rock and roll si chiama Rock and Roll Night, questa notte del rock and roll. C'è un po' di punk secondo me in questo pezzo, non so se più che rock and roll c'è anche rock and roll, anche un po' di spiaggia, diciamo. Ma anche un po' di spiaggia, sì, un po' di cori californiani, non dico alla Beach Boys. Qualcuno ha parlato di Blink 182 per questo pezzo, un po' più malinconico, non so se siete d'accordo. Sei d'accordo, Claudio? Come, scusa? Dei Blink 182, qualche critico ha citato i Blink 182, non è il vostro gruppo di riferimento? No, assolutamente no. A proposito di gruppi di riferimento, il manager se n'è andato, ma non poteva andare via, perché adesso abbiamo la domandina. E i dischi da portare su un'isola deserta, vedi? Delle 22.58, quindi 22.59 è la domanda fondamentale. Dimmi. Allora, io porterei... Una cosa che devo dirti, Andrea, sì. È semplice. Non si può copiare, perché la regola fondamentale... È per quello che parlo per primo. Appunto, perché non si può copiare, quindi... Quindi partiamo che in utero di Nirvana lo porteremo no, tu. No, solo uno lo può portare. Porterei... Dimmi. Lui, va bene. Dimmi. Beh, su un'isola deserta devi portarti anche uno stereo e deve esserci una corrente. Insomma, ci possono essere anche le batterie, non servono la corrente. Ok, vabbè. Dimmi. Specifichiamo quello. Io porterei Nevermind dei Nirvana. Lo porti perché è un disco epocale, perché lo porti perché si consuma in Nirvana, lo porti perché ti piace. Ma lo tutti porto e tre. Perché tutti e tre. Tutti e tre. Perché è figo. Certamente. E poi anche perché è stato ricordato di recente. Sì, sì. L'anniversario del Nevermind, che è un disco epocale perché ha aperto tutte le strade, si può dire così, Andrea, sei d'accordo? Poi porterei Disintegration dei Cure, che abbiamo citato come tuo gruppo di riferimento. E poi Wow dei Verdena. Di Verdena, benissimo. Quindi i 3 dischi di Andrea. Tocca a te adesso, vieni al microfono. Nicolò, vai. Dai, in utero di Nirvana. Nirvana. L'ho rubato anche a Simone, penso anche a Claudio. Non importa. Perché Nutro di Nirvana? Perché Nutro di Nirvana? Non dico Nevermind o il disco precedente. Ma perché io li ho conosciuti con i Nutro. Quindi mi sono innamorato di Nirvana grazie alla batteria di Nutro. Neanche avevo, non che so, poi ero alle medie. Se andato, finito la band, ha fatto un altro gruppo. Sì, cioè, Foo Fighters. Foo Fighters, esattamente. Che sta avendo un grande successo. E sono bravissimi. E l'ultimo disco di Foo Fighters è un disco molto Nirvana, molto duro, secondo me, rispetto. Non l'ho ascoltato. Molto duro. Sono aggrappato ai primi 4. Ok, benissimo. Questo è il minuto di Nirvana, secondo disco tuo? Secondo disco... Angels and Demons at Play di Motor Psycho. Ah, i Motorcycle, bene, come mai i Motorcycle? Perché sono... Il manager se n'è andato, deve parlare anche al manager dopo, okay? Sono... Dimmi è stato un altro punto... Punto focale, della mia, di importanza. Sì, della mia ricerca musicale, mi hanno fatto scoprire altre cose. Bene. Beh, anche se sentiva l'accordo non succede mica niente. Vai, dimmi, sente. Dimmi. E poi... tanto una forbice. E poi... non serve, dimmi. Infinity Symbol dei Godspeed You Black Emperor. Questi li conosco un po' meno. Musicalmente, su, dove parano praticamente? È strumentale, ma roba proprio... Cioè, un album di tre pezzi dura più di un'ora. Ah, come si usava una volta praticamente. Ok. Sono in nove. No. L'ultimo, li ho visti a Milano. A Milano? In nove. Però ne mancavano tre. Però, quindi un gruppo molto, molto, molto corposo. È strumentale, strumentale. Molto interessante, no, quindi, cioè, decisamente sì, forte. Insomma. Altra svolta, no? Potresti anche portarti il disco primo dei Manetti, cioè che almeno te lo ripassi un attimo, vero, lì vero, sotto una palma, che vero, dovremmo vero suonare anche quello. Ah, io le so già, sento che non me le ricordate. Dai. Claudio, tocca a te. Io mi porterei, dimmi, tre dischi di... tutti e tre dello stesso autore. Autore, Ali Farker, cioè? È un cantautore africano. Come mai i ritmi africani tu ami particolarmente? Perché la musica arriva dall'Africa. Musica arriva dall'Africa, quindi soprattutto è un percussionista sto ragazzo, sto artista. No, lui suona la chitarra. Suona la chitarra. Cioè, ma se senti cosa fa. Secondo noi arriva da Seattle. Andate a sentirlo. Benissimo. In realtà arriva da Seattle. Può darsi. Può darsi. So, Liverpool o Seattle. Può darsi che sia. Perché in questo momento è l'unica cosa che veramente mi ha dato un nuovo senso nell'ascoltare la musica. Allora, tanti anni perché fa, perché comunque, dimmi, potrei parlarti di Nutero, dei Nirvana, certo, però l'hanno già scelto e tutti gli altri ragazzi. Certo. In questo momento è questa musica. In questo momento tu ami questo. Sto ascoltando anche molto jazz. Benissimo. Dobbiamo sempre sottolineare una cosa, che dal punto di vista della musica rock e pop, più pop che rock. Ma ho avuto il tempo prima. Sì, di sì, no, no, ma sì, sono d'accordo con te, ma parlo della musica africana. È stata sdoganata da un personaggio che tutti ricordano, si chiama Paul Simon, grazie a Graceland, molti, molti anni fa. Canato nel senso della parola musica africana. Poi la musica africana chiaramente ha fatto il suo percorso grazie anche all'etichetta di Peter Gabriel, eccetera, ha portato avanti. Musica africana è proprio la musica emergente, adesso c'è poco da fare. Si sentono spesso e volentieri i musicisti africani dappertutto. Il nostro manager, che poi avvicinarsi al microfono, adesso parla lui. Vieni il nostro manager. Tanto ciao. Ciao, ciao Andrea, vai, vai. Ma è scontato un po', io porterei via i Manetti, non so se li conosci. Mi pare giusto, mi pare giusto. Quanto? Tutti e due. No, vabbè, poi la produzione dei Manetti praticamente. How We Operate dei Gomez. Ah, bene, come mai hai citato i Gomez? Ma è un gruppo che mi piace, semplicemente per quello. Molto interessante i Gomez. E poi, vabbè dai, per Jam, Ten. Ah, il classico, un classico dei classici. Secondo, il più importante per me è Manetti. Oh, giustamente, il manager deve fare il suo lavoro. Ma è difficile lavorare con i Manetti? Abbastanza. Sì. No, dai, ci stiamo lavorando. Sì, vabbè, state lavorando. È così, bene, come dice Andrea. Andrea il maglia. Immagino. È così, ma state, è così, è così. State lavorando bene. Bene, Simon, tocca a te, dai. O Simon, come ti posso chiamare? Simon. Vabbè, Simon, dai, che è più bello così. S. Lui è S. Allora, io porterei Pavement, Crooked Rain, che è un disco secondo me incredibile, perché è marcissimo, però ha una vena pop che tutte le canzoni sono, cioè raramente sono dischi dove una canzone non è messa lì così, ma quello. Poi Magical Mystery Tour dei Beatles. E poi metterei, non mi ricordo il titolo, però il disco dei Blur, quello con la barella sfocata, vi ricordate? Blur. Ok, i tre qua. Quindi bocci gli Oasis, viva i Blur. No, mi piacciono anche gli Oasis, però Blur è più interessante. Cosa ne pensi delle due carriere, delle baruffe continue, le due carriere definitive di due fratelli? Problemi di droga. Ma secondo me al di là dei problemi di droga, dal punto di vista di musicale, però di musicale è la continuazione. Tu dici due progetti che hanno avuto. Ho sentito i singoli, ho visto i video, non ho mai ascoltato il disco. Non mi dico niente, sinceramente. No. Cioè, sì, praticamente hanno fatto due progetti, però sono sempre loro. Cambiano il nome. Mi è piaciuto un po' di più quello di Liam, che è un po' più. A me è il contrario. Te è il contrario. Sì. Quello di Noah è più Oasis, sì, al 100%. A me piace. E Liam è un po' più grezzo. Mi piace un po' di più, però dovrei approfondirli. C'erano fatti per sé. A me non piace né uno né l'altro. Ah, niente. Bocci, gli Oasis in tutti i sensi. Ah, sì, no, eh. No, quando no, suonavano con gli Oasis hanno fatto delle belle canzoni. Adesso si sono separati, però fanno la stessa zolfa. Lo so, perché cioè, uno fa un disco, uno ne fa un altro, cioè, però alla fine è lo stesso stato. Va a finire che ritornano assieme, cosa dite? Non so, dico, faranno loro... come Litfiba. Sì, ma sai, sono ritornati per un solo motivo. Sono ritornati lì. Sono tornati perché ci sono le perché avevamo sono... bisogno di fare un po' di soldi. Sì, solo per quello. Beh, era un grande gruppo una volta lì. Beh, anni 80. 17 Re. 17 Re è un grande album. Straordinario. Litfiba 3. È straordinario. Poi chiaramente le cose cambiano. Piero Pelù e l'altro componente di Litfiba. Cioè Litfiba, se non c'era Piero Pelù, non erano più Litfiba. E da solo Piero Pelù non ha fatto praticamente nulla. Beh, ha fatto meglio di quello che ha fatto, secondo me. Sì. Forse cioè, nel male ha fatto meglio. I primi dischi sono buoni di Pelù, primo o secondo di solista, ma poi si è proprio perso. Vabbè, ma già gli Litfiba ultimamente erano... Ma erano diventati cioè nel scarsi. No, infinito. Lo so, però la trilogia della Terra... Vabbè, ma il diavolo, il terremoto, lo so. Spirito... Avevano già non di sommersi già erano dopo il diavolo è finito. No, non esistono più secondo te. No. Sì, si sono leggermente un po' cioè, commercializzati. Litfiba erano i primi Litfiba. Lo so, però non può essere così radicale. Cioè, hanno cambiato anche vabbè, loro. Sono arrivati a far musica commerciale. So, però è un commerciale di un certo livello. Il terremoto insomma, non era tanto. Sì, però okay. È così. Sì. Per me è così, non avevamo più niente da dire. Non avevi più niente da dire. Visto che ci siamo, abbiamo ancora tempo, io proporrei un'aggiunta ai tre. Facciamo un quarto disco, dai. Ci siamo? Un quarto? Un quarto disco da scegliere, dai. Visto che abbiamo tempo. Un quarto disco da scegliere. Dai, un po' alla volta, rispondiamo tutti. Questo è il manager, che anche se è fuori. Dimmi Andrea. Un disco che può dare un certo significato di percorso musicale. Un disco di una band del lago che si chiama Push the Button Gently. The Button Gently, scusate. Senza il D però. Senza il D. Che sarebbe il gruppo del Nick. Come il gruppo del Nick, cioè sarebbe di Nicolò praticamente. Sì. Gruppo che suona ancora Nicolò? Sì, suona ancora. Suona ancora. Genere? Ma che genere fanno il tuo gruppo? Rock, rock. Indie. roba. Quella. Sempre originale vostra. Questa influenza, un po' Pavement. E Pavement, bene o male, serpeggiano dappertutto nella vostra musica, oltre i Cure. Pavement è un grande gruppo, un gruppo interessante. Pavement hanno influenzato parecchio. Sì, non sembra. Molti critici dicono di no, però molti critici non vengono citati. Invece è un gruppo che ha influenzato parecchio. Hanno influenzato... Sì. Nei meandri, nel sotterraneo. Cioè nessuno è sghembo come i Pavement, però tanti hanno preso dai Pavement. Quindi abbiamo parlato di questo disco qua per Andrea. E Nicolò, serve un altro, dai, visto che facciamo il giro un'altra volta. Oh, mamma mia. Ma quello che vuoi, che ha influenzato te particolarmente. Per me un gruppo che mi ha influenzato era il suo vecchio gruppo, i Milhouse. Ecco, parliamo tutte delle cose strane, cioè sconosciute, perché non parliamo? Ci influenziamo a vicenda. Ci influenziamo a vicenda. Claudio, avevi un gruppo allora, precedentemente? Sì, ho suonato in questa band praticamente dal 99 fino al 2006. Quando cavolo, ho suonato parecchio tempo allora. Sì, me la sono abbastanza divertita. Bene. Cioè, ho girato un po' l'Italia, un po' l'Europa anche con quel gruppo. Abbiamo fatto 300 concerti. Però, interessante. Un gruppo... Solo che siamo andati a morire. Cose che possono capitare. Cose che succedono. Manager, un altro dischetto anche per te, dai. Ti avvicini al microfono. Ma vi porterei tutta la musica aborigena. Ecco. Di Giridù. Benissimo. Che è uno strumento che mi spara fuori, come dicono a Bellano. Che mi fa sparare fuori. Che mi fa sparare fuori. Perché c'è da dire che Kala è mezzo australiano. Ah, vedi, c'è un motivo. Allora, c'è un motivo che quindi la terra d'origine ti viene fuori. Giustamente, è una cosa giustissima. Simon. Dirty Sonic Youth. Un altro gruppo, dimmi Go. Claudio. Benissimo, abbiamo citato un gruppo storico, un altro nome tutelare di certa musica. 23:10, adesso abbiamo parlato un po' troppo, dobbiamo far sentire gli ascoltatori qualcosa. Che cosa? Ma proviamo a fare una cover. Bene, di cosa? Vediamo se... Indovini. Vediamo se indovino te. Aspetta che... Ultimo. think I am okay. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am clean, clean. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun, girl. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am okay. However far away, I will always love you. Whenever word I say, I will always love you. Whenever word I say, I will always love you. I will always love you. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free, yeah. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun, yeah. However far away, I will always love you. Whenever word I say, I will always love you. Whenever word I say, I will always love you. I will always love you. Radio Rock Wave, l'onda del rock. La cover dovete presentarla voi, io l'ho capita. Sì. Dai, forse. Praticamente era Love Song dei Cure. Ecco, appunto. Dobbiamo alzarci in piedi per onorare Robert Smith. Nel sì. Senso, no, avete fatto bello, l'avete fatta bene. Dai, io sono molto contento e soddisfatto. La band di Cure io l'ho sempre amata. Io ho una certa età, ragazzi, quindi i dischi li conosco, non tutti, però qualcosa conosco. Avete fatta bene, con molta partecipazione, con molto slancio. Grazie. Secondo me, cosa dici, manager, che sei australiano, sì, te praticamente, quindi i Cure li hai sempre amati anche te. No, giustamente, no, avete fatto bene, le fate anche adesso stasera, l'avete fatta qua, ma fa parte anche del vostro, ma del vostro di concerti? Di solito no? Facciamo solo i nostri pezzi, però a volte, sì, dipende. Dipende da... Dimmi Claudio. Da questo tour, questa questa cover la stiamo proponendo. Ma l'avete, adesso l'avete proposto in chiave prettamente acustica, è fatta molto bene, molto posso dire un po' west coastiana in alcuni momenti. Come la fate con la band elettrica praticamente? Gli date impulso, gli date forza? Sì. Ma è molto intima, rocchettina, dai. Sì, dimmi. Rocchettina, però anche intima un po', cioè, cioè delicata proprio, comunque. Sì, quindi c'è delicata. Un momento, esattamente, perché questo è anche un pezzo delicato, se possiamo dire. Beh, dipende, perché noi di solito dal vivo ci facciamo prendere da due entità. Un ecco quali, quali sono? Attenti, sì. Un ecco Ben, l'altra è Robert Smith. Soprattutto lui. Scusami, non ho capito la prima entità. Ecco Ben, ah. Ecco Ben, sì. Quindi in Nirvana ci sono, è rischioso quel. Ma in Nirvana ci facciamo fatto, prendere. Hanno certi fatto personali. Anche dei pezzi notevolmente sì. Acustici, acustici per modo di dire, durissimi ma acustici. Sì, mi ricordo quel famoso Unplugged che ha fatto lui, è meraviglioso. Cioè, diciamo che l'ultima volta è stato abbastanza pericoloso. Cioè, in che senso? Cioè, c'è impossessato Kurt Cobain e siamo finiti. Cioè, io e lui siamo finiti. Siamo finiti nella batteria, cioè, non si sa perché. Ho capito, è rischioso, cara. È rischioso. Esattamente. Beh, sì, sì. Ma la musica può essere anche rischiosa. A proposito di rischio, è difficile o è facile trovare dei posti da suonare adesso, in questi ultimi tempi, ragazzi? Secondo Guarda, voi. Dovrebbe parlare Cala, però. Cala, manager, cosa dici? È difficile, Cala. È ma un po' complicato. Stiamo lavorando, però sì, non è facile. Quest'anno, questo periodo. Soprattutto in questo periodo, appunto, che molti locali stanno chiudendo anche. Non è facile, però verranno fuori le date. Ma certo, bisogna avere pazienza. Poi diciamo una cosa positiva, i ragazzi suonano pezzi loro, è quello importante. Sì, abbiamo fatto una cover di Cure, così così tanto per colorare il programma. Però, per ricordarlo un po'. Esattamente, cioè, ma avete fare pezzi vostri non è semplice, è molto più difficile, perché la gente purtroppo si affida a fare sempre le solite cover, di Liga o di Vasco o di gruppi similari, magari anche quella dei Cranberries o anche dei Cranberries. Qualcuno ha scritto sì che qualcosa potete qualche accordo in un momento potete ricordare i Cranberries, come beh insomma è un po' tirata, chiaramente no, Cranberries è un po' sono un po' esagerato da, quello sì, che esatto. Ha scritto sono un po' distanti dalle vostre frequentazioni, però sì. Insomma anche in Napalm Detto in Napalm Detto sì esatto, esattamente. Ok, 23:18 potremmo parlare di un'altra cosa, sì, dell'insieme, abbiamo parlato delle 140 date, ma potremmo anche parlare adesso la formazione che sta sul palco stasera, siete voi o c'è qualcuno vi dà una mano al di là di tutto? Vai. Allora, io devo dire che siamo una squadra, cioè siamo quattro musicisti, diciamo, no, musicisti, sì. Noi quattro, in più c'è anche Cala che ci segue. Certo, che vi segue sempre dappertutto, sì, cioè, fotografo compreso praticamente. Fai che fotografo. No, stasera in realtà fotografo. C'è, a volte ci segue anche un ragazzo che fa, ci riprende, documenta un po' il tour così. Certo. E in più c'è anche Gigi che ci permette di essere elastici un po' nel sound, cioè fare quello che vogliamo mentre lui fa i suoni e... Quindi siamo una squadra di sette persone a volte. Esattamente. Sette, otto. Dimmi, sì. Dimmi. Ricordare il grande meme che... Anche, cioè, sì, scusa, è stato un errore mio. Anche c'è un ragazzo di Bellano del nostro paese che sta... Cioè, che è uno dei nostri più grandi fan, dopo il Nick. Ah, dopo Nicola. Nick, che ci sta seguendo anche lui molto in tour e ci dà una mano. È indispensabile. Sì, cioè, è indispensabile. Di cura sì. Cosa il ci, sito? Ci monta tutto, ci è bravissimo, è velocissimo. Farrodi, fotografo. Ah, fa un po' di tutto. E salutiamolo anche, dai. Ciao, Meme. Ciao, Meme, Meme. Grande, grande Gigi. Sì, sì, e che sì, vi sì. Ha fatto questo bel... Bella copertina, bel ma libretto praticamente. La copertina inizialmente l'ha disegnata il Simon, ah. Dopo ci ha fatto veramente schifo, allora abbiamo chiesto a una grafica che abita di fianco a casa mia, che si chiama Elena Ghezzi, ed è molto bella. Sì. Bene, non eri adatto probabilmente Simon. Non so, cioè lui si è messo in testa. Io non l'ho mai disegnato, ho provato così, non è piaciuta. Sì. È stato bocciato, peccato. Beh, insomma, vabbè, si può provare. Bisogna fare tutti insieme il gruppo, come tu hai detto sì. Giustamente. Non è semplice, però fare un gruppo è molto, molto bello, molto positivo. Sì, è molto difficile girare insieme. Perché sette persone sono difficili da portare insieme. Perché siamo difficilissimi. Cioè, abbiamo un caratteraccio. Cioè, io penso che sono il peggiore. Dopo, adesso confermi che sei il peggiore. Hai detto, sì, detto sì, davanti sì, a tutti. Io sono il peggiore. Penso di sì. Esattamente. No. Cioè, come per me girare con quattro ragazze, quattro fidanzate. Cioè, più o meno è così. È, quella, è così. Ma abbiamo parlato dell'influenza dei vostri gruppi. Tu hai avuto qualche gruppo prima, Andrea? Sì, io arrivo dal punk. Ci chiamavamo Riot. Eravamo sempre, sempre con Simo? No, Simo faceva parte di un altro gruppo. In realtà lì. Ho suonato con la mia ragazza, tuttora ancora mia ragazza, e con altri due disgraziati del lago di Como. Sì. Beh, è una, no, è un per ridere. Sì. Sì, esattamente. Poi è terminata la sua, sì, il discorso. Però ben giro, abbiamo citato tutti i gruppi. Che influenza ha portato nel vostro sound? Non, forse all'inizio tu non c'eri come bassista, ma all'inizio che influenza ha portato come musica strumentale le diverse vostre componenti? Tu eri il punk, tu facevi un'altra parte di un'altra band. Si sentono comunque le influenze, se ascolti più, ma anche su questo c'è il punk. C'è anche il punk, c'era anche prima quando avete suonato, secondo me. Cosa dici te? Sì, no, sono d'accordo, punk c'è. Ma tu che influenza hai portato? Io suonavo prima un altro gruppo, facevamo cose abbastanza pesanti, tipo i Deftones, questi gruppi. Però non ho poi smesso di fare quelle cose lì e ho trovato, cioè ho cambiato anche modo di suonare, quindi sì. Sei adeguato. Ma ho iniziato ad ascoltare Mogwai, ho iniziato a fare tutti gli arpeggini e ho portato quella cosa lì. E Mogwai, un altro gruppo che non abbiamo citato, ma che non è che sia il vostro gruppo di riferimento, però circola l'abbiamo in continuazione. L'abbiamo ascoltati tanto. L'avete sentiti tanto? Troppo. Ci hanno stufato, non riusciamo più ad ascoltarli, non però riusciamo più ad ascoltare. Qualche anno fa ascoltavamo dalla mattina alla sera loro. Ho capito. Sono bravi, però... È arrivata una nuova influenza. Sì. I Liars. Ah, i Liars, è vero, è vero. Ci sono tanti gruppi che girano, però siete sempre voi, al di là di tutto, la musica è vostra, i dischi sono vostri, è tutta vostra musica indipendente, quello da sottolineare, assolutamente scritta da voi. Questo è molto positivo. 23-22, non so cosa ci sia scaletta, io farei un altro pezzo da live, bello lungo. Faremo l'ultimo pezzo. Che no, non facciamo dopo l'ultimo pezzo. Allora facciamolo dopo. Facciamolo dopo, allora ora sentiamo un pezzo da disco, dai. Dai, ok. Ok. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci, siamo arrivati, eccoci qua. Dovevo mettere a posto gli occhiali per quello, questo è il motivo del piccolo ritardo. Abbiamo parlato di questo pezzo, ripetiamo il titolo che abbiamo sentito. Cosa che abbiamo sentito? John Play Specia. John Play Specia, cosa ne pensi di questo pezzo? Come l'avete creato? L'idea, come è partita? Ma l'idea di questo pezzo era di farlo un po' west. Sì. Un po' moriconiano. Sì, infatti l'abbiamo fatto west. Va bene. Così. In realtà prima di John Play Specia... Dimmi. Si chiamava West. Ah, direttamente così? Sì, sì. Comunque... Dimmi. È un secco, questo è uno strumentale praticamente. Sì, sì, uno dei tanti strumentali. In realtà ne abbiamo, come dicevo prima, ne abbiamo... Cioè, non li abbiamo messi, ne avevamo a iosa proprio di pezzi strumentali. Ne avremmo avuti un 6. Avete messi 3 sì, praticamente su. Sì. Però avete fatto una scelta, come giustamente tu mi hai detto all'inizio di trasmissione. Sì, li abbiamo scartati molti, anche non strumentali. C'erano alcuni che mi hanno anche bocciato. Ti ha bocciato il capo dei bocciati? Sì, Simone. Sì. Ah, Simone l'ha bocciato, lui? Il critico. Sei tu il critico allora? Sì, ne ho bocciati un paio. Come mai li hai bocciati un paio? Ma non mi ricordo. Boh, ma poi anche ma... ti sei autobocciati anche te. Sì, perché magari non erano così efficaci, non erano a livello degli altri. Cioè, sì. No, volevamo tenere proprio le cose che diciamo, questa è bella, la teniamo. Cioè le cose un po' via di mezzo, non le buttiamo. Ho capito, cioè le cose più interessanti, più, non dico più radiofoniche, assolutamente no, che a voi sembravano migliori nell'arco di tutti quei pezzi che avevate scritto. Comunque ripeto, magari il disco è venuto bello prodotto, è una produzione cioè tutta precisa, fatta bene. Sì, cioè nel senso che abbiamo passato giorni proprio alla ricerca del suono giusto, così. Però se voi venite a sentirci dal vivo, cioè veramente sembra di essere un concerto anni 90, quindi venite. Cioè non è che cioè ce l'abbiamo nel disco, in realtà noi siamo fissati con i Nirvana, con gli anni 90, Madonna, Screaming Trees, così. Però in realtà sul disco non è che si senta molto questa influenza. No. Questa influenza qua si sente dal vivo. Dal vivo, assolutamente. Se voi venite a sentirci sembra di essere a Seattle, non so. Ah, bello così, bello. Molto interessante. Quindi assolutamente ripetiamo il sito vostro, dai, che abbiamo forse ripetuto una volta. Lo ripetiamo un'altra allora, volta. Abbiamo facebook.com/manetti. Certo. È uguale myspace.com/manetti. Lì è sempre aggiornato, cioè guardate Facebook, è sempre aggiornato e troverete tutte le nostre date, tutte le nostre cazzatine che scriviamo, le nostre foto dei concerti e se uno vuole il disco materialmente come lo può avere? Oltre materialmente si trova in tutti i negozi, abbiamo la distribuzione Venus, quindi è una distribuzione molto importante, sì, che prende tutta Italia e nel caso non ci fosse in Sicilia il nostro, per dire, adesso sto facendo un esempio, il nostro disco potete ordinarlo, richiederlo, che vi arriva a breve. Grazie al manager che è qui davanti. Sì. Sì, grazie a lui, è lui che spedisce, no? lui che spedisce i dischi. No, ma è giusto che sia così. Sì, sì. E cosa ne pensi del discorso quindi di internet, la possibilità di andare oltre, di far sentire il vostro disco, non so, sono in Alaska stasera, chiaramente. Ma è bene. Sì, è bene, ma è una cosa positiva al 100% o c'è qualcosa di negativo? L'affidarsi totalmente alla tecnologia. Allora, un gruppo come noi è solo una roba positiva, penso che ci ascoltano dall'altra parte del mondo, per dire. Cioè, stasera sicuramente. Sì, stasera sì. Ma certo. E niente, per noi è solo positivo, almeno per me, non so se per voi potrebbe essere. Perché male. Il discorso di positività, ti faccio un esempio. Qualche settimana fa è venuto qua un gruppo, mi pare da Bergamo, che ha mandato un disco negli Stati Uniti, il manager di un'etichetta, sentendo questo disco, li ha chiamati e li ha fatti suonare in America. Quindi una cosa può capitare anche a voi. Ma io sapevo dei Jennifer Gento. Quelle sono di Padova, sì. Sono state il primo gruppo italiano che ha inciso. Tra l'altro sono fighissimi. Sono forti sotto loro. Sub pop. C'è il sogno. È il sogno di tutti. Però può capitare via internet, non c'è nessun problema. Quindi l'esempio a proposito di internet, ricordiamo l'esempio, a proposito tu citavi a microfoni spenti la bramosia di trovare un biglietto di Radiohead. I Radiohead sono stati uno dei primi a mandare il disco su internet praticamente. È una cosa positiva secondo voi oppure no? questo, sì. Vabbè, qualcuno dice, ma i Malini dicono, erano i Radiohead, potevano fare quello che volevano, avevano un background dietro. Beh, mica tanto Malini, è vero, è la verità. Anche Malini, nel senso che però non hanno venduto come si aspettavano di vendere, perché loro avevano un'offerta, chi ha dato una stellina, chi ha dato cinque stelline, chi ha dato pochissimo, chi ha dato moltissimo. Quello è il discorso. Però case discografiche ormai, cioè le grandi etichette ormai non esistono più, ormai esistono solo per determinati gruppi. Beh, sì. Sono le etichette indie. In Italia, oltre alla Sangue Disken di etichettone, ce n'è un'altra molto figa che si chiama La Tempesta. Tempesta Records, di che ha fatto un percorso, sta facendo un percorso molto interessante di musica indie. Sì, dopo la Sangue Disken, però. Beh, sempre dopo di quella. Decisamente dopo di quella. Ok, adesso sentiamo qualche pezzo dal disco all'inizio di carriera del 2000. Che anno portava? 2007 fatto. Il disco dell'inizio dei 140 concerti fino al 2009. Abbiamo scelto la traccia numero 2, mi pare. Ti ricordi il titolo? No, te lo ricordi? Tu che sei l'esperto della discografia dei Manetti all'inizio. La seconda si chiama Mogwai. La seconda si chiama Mogwai. A proposito del citazionismo pop che qualche critico ha scritto, non in questo disco, ma soprattutto nel disco precedente, in questo che sentiamo. Questo è tutto strumentale, lo sentiamo assieme allora. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ripetiamo il titolo di questo pezzo che era dal primo disco, Andrea. Dai, è Nicolò, è quello che si ricorda Mogwai, il titolo. Mogwai. Un pezzo lunghissimo, dura circa 6 minuti. Tu dicevi una cosa giusta, Andrea, mentre il pezzo andava. La sindrome, quando uno l'ha sentito e l'ha suonato per un sacco di volte, se lo basta, non vuole più suonarlo, chiuso. Al di là che questo progetto è tutto lontano da questo progetto, dal progetto precedente. Però di solito un musicista quando suona sempre un pezzo, poi decide di non suonarlo più perché sta. Ma no, in realtà no, non stavo dicendo quello, stavo dicendo... Ti devo questo io, forse ho sbagliato a intendere. No, dicevo del disco che praticamente dopo averlo registrato, cioè proprio aver passato l'ultimo giorno di mixaggio, dopo mesi, nei nostri, di nel nostro caso, ultimo disco dopo anni. Certo. Perché sono anni. Niente, non, dopo l'ultimo giorno per un po' non l'ho più ascoltato, cioè non avevo proprio, non ce la facevo più ascoltarlo, ho ascoltato troppo. Ma io ti dicevo questo, volte, esiste il discorso che un musicista dopo aver fatto un disco, dopo averlo suonato un sacco di volte, dopo averlo provato un sacco di volte, è stanco, non lo vuole più suonare, succede in qualche pezzo di un disco, secondo te può capitare? Ma sì, può succedere, però ad esempio noi di solito li riarrangiamo, arriviamo a un punto dopo un po' di tempo e iniziamo a riarrangiare. Quindi c'è una linfa diversa, una linfa nuova, Claudio, cosa dici? Continuiamo a evolvere i pezzi, però comunque adesso come adesso stiamo proponendo i pezzi, in questo momento stiamo proponendo i pezzi del nuovo album, del disco. E quindi i pezzi vecchi li abbiamo praticamente tolti tutti. Tutti direttamente facciamo tolti. Facciamo solo una cosa, solo un dice pezzo. Il pezzo che verrà, che la traccia numero 3 ascolterà fra poco. E sempre mentre il pezzo andava, io parlavo con te, dicevo tu menavi ben forte, perché chiaramente non essendoci il basso dovevi dare una spinta incredibile. Sudare. E poi Nicolò faceva le tue movenze praticamente. Tu hai studiato tutto questo disco, lo conosci bene. Sì, ma io li conosco da quando ero appena uscito. Quindi il disco. 2007. Io lui lo conosco da un bel po' di anni, Claudio lo conosco da un bel po'. E le prime uscite, le ricordi le prime uscite loro con questo disco? Prime no, però avevate fatto penso una decina di concerti. Abbiamo parlato di 150, 140 concerti che hanno fatto, però all'inizio, proprio all'inizio. E li ho conosciuti nella prima decina, penso. Che ti ricordi la prima volta che li Ah, io ero rimasto basito. Ecco, quindi anche perché anch'io avevo un gruppo con cui facevo strumentale. Quindi trovarne un altro dell'altra sponda del lago, ho detto bene, è una cosa così. Che roba è successa. Però abbiamo spiegato all'inizio di trasmissione perché lo strumentale, però lo possiamo rispiegare meglio, ampliare perché uno strumentale. Ma allora, proprio all'inizio di carriera. Poi chiaramente le cose sono cambiate. Allora, noi abbiamo iniziato a suonare strumentale perché non aveva niente da dire. Cioè, quindi non aveva niente da dire. Ci siamo messi lì e suonavamo. Perché i testi non c'erano ancora? Non c'erano i testi. C'è qualche frase così ogni tanto, giusto, è usata come uno strumento, diciamo. In quel periodo stavamo ascoltando parecchio anche i Mogwai, sì, quindi anche non sentivamo. E queste frasi che ci sono dentro? Ah, anche nella canzone. Sì, praticamente sono i Mogwai. Sono i Mogwai che parlano. Adesso ci faranno. Faranno causa. Li abbiamo invitati sul lago di Como per 2 giorni. E gli abbiamo detto: parlate un attimo. E di nascosto li abbiamo registrati. Con i microfoni davanti. Beh, sarebbe una bella prospettiva invitare una band simile. Non so se esistono ancora i Mogwai. Mi pare di no. Sì, esistono ancora. Un panorama come quello del lago di Como sarebbe mica male. Sì, sarebbe bello invitarli, però cioè, io li inviterei anche domani. Che costano, mi sa. Ah, beh, certamente costano. Adesso non so quante potrebbero costare. Un sacco di soldi. Però... Anche loro, però, hanno cominciato da sconosciuti, totalmente da sconosciuti. Poi il discorso delle etichette indipendenti. Quanto è importante le etichette indipendenti anche per questo? Loro non hanno mai inciso per la merce, hanno sempre inciso per un'etichetta indipendente. Che abbiano una loro etichetta. Sì, una loro etichetta personale. Si chiama Rock Action, se non sbaglio. Sì, mi pare tra di l'altro sì. È anche uno degli album dei Mogwai che preferisco, che preferiamo. In senso assoluto. Come on, dai. Simon citava... Ah, ok, non lui, era quello. Gli hai citato anche te all'inizio, quando avevamo parlato di tue influenze. Sì, no, è un gruppo che ci ha influenzato molto in quel periodo lì. Però anche lì prendevamo un po' alcune cose di Mogwai, però comunque saltava fuori l'attitudine punk. Quindi i pezzi, quella che abbiamo sentito prima era lunga, però di solito duravano poco, 3 minuti e mezzo. Erano, cioè, tipo alcuni ci dicevano che assomigliavamo ai Mogwai rock, però la versione più... Eh sì, perché i Moog avevo questa caratteristica, pezzi strumentali molto lunghi, però qualche pezzo durissimo, di pochi secondi, ma durissimo. Sì, noi eravamo più rock alla fine, sì, si può dire così. Sì, ma certamente che si può dire. Sì. Ok, questo era il primo pezzo che abbiamo scelto dall'album di qualche anno fa, del 2007. Adesso abbiamo scelto un altro che piace molto al nostro manager. Adesso diciamo il perché ti piace molto la traccia numero 3 di questo primo album dei Manetti. Però il titolo non abbiamo mica detto del primo album dei Manetti. Madonna. Ecco, il titolo. Oh, vai, okay. Dimmi. Perché mi dà una carica... Una carica infinita. Ok, esplicativo, abbiamo capito. Perché tutto. C'è il grunge. Ecco, esattamente. Adesso sentiamo traccia numero 3 del primo album dei Manetti. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, il nostro manager diceva che dà molta grinta, molto pathos. Pezzo molto duro questo, poi c'è Belva, scusa se ti chiamano Belva, io ti chiamo Claudio come ti chiamano Belva, Belva perché musicalmente sei una macchina, un po' alla Bonzo, il finale di questo pezzo ricordava molto i Led Zeppelin, Bonzo che si dava da fare con Black Dogs che alla fine rallenta in modo esponenziale. Come mai Belva? Perché musicalmente non stai fermo sul palco, beh chiaramente devi muoverti come batterista, però non dai una grinta notevole. Dimmi. Molto probabilmente un carattere così. Ma no, perché suona in modo disumano la batteria, cioè veramente bravo. Si dà da fare al 100%, cioè stop and go, ariosa, passaggi, eccetera. Quindi avrai una maxi batteria, non quella che, giustamente minima che hai portato stasera. Quanti rullanti ci hai? Quanti tom? Ne uso uno. Uno solo. Un solo rullante, un solo timpano. Però bastano e avanzano, no? Sì, basta avanza. Esattamente. Però adesso quel discorso di questo nuovo disco che, come giustamente detto Andrea all'inizio, rimpicciolisce il discorso dell'improvvisazione praticamente, come ti sei leggermente limitato oppure no? Ma no, era quello che... cioè, praticamente quello che ho registrato è quello che sentivo in quel momento, quando abbiamo composto quei pezzi. Ho capito, quindi... Poi, se si deve parlare di psichedelia, sono propenso a farla anche subito. Fai un rullato un secondo? No, non vuoi farlo? Ti facciamo fare subito, non c'è mica problema. Bene, questi erano i Manetti, prima versione. A me piacevano anche questi, io non avevo mai sentito disco strumentale. Sì, è buono come disco. È buono, sì, certo. Tu hai detto che è fuori commercio praticamente, si trova su YouTube praticamente. No, si trova in realtà solo in digitale. Solo in digitale. Su iTunes, però non ha la distribuzione... A proposito di distribuzione, volevi citare una cosa adesso. Ma sì, che da qualche mese che siamo entrati a far parte di Virus Concerti, che con il nostro manager, sì, che ci sta seguendo e siamo molto contenti. Infatti a febbraio o marzo dovrebbero iniziare. Adesso faremo una pausa di un mesetto e mezzo. Infatti il 6 io e il Belva andiamo in Brasile un po' a fare vacanza. Bene, bene. E poi? E dopo quando si torna si inizia a suonare. Alla grande. Riparte il tour, sì. Speriamo altri 140 concerti, cosa dici? Ma io spero, ma guarda, a me bastano anche una quarantina di date fare quest'anno belle. Cioè belle? Belle come quelle che abbiamo fatto un po' di anni fa. Come queste 18 ne abbiamo fatte, 20, 16. Non so. Quando è stato? Vabbè, 16. Quando ne avete fatto? Quest'anno? Sì, da maggio, giugno. Girato dove? Oltre Lombardia? Oltre la Lombardia? Sì, settimana scorsa abbiamo fatto il Circolo degli Artisti. Dove? Milano? A Roma. A Roma, scusa. Sì, e poi a Contestaccio, sempre un altro posto lì. Poi sì. Vabbè, abbiamo suonato, ci sarà a febbraio così a Firenze, adesso non so, cioè anche zone... Ci sono le date, ci sono le idee di date praticamente. Sì, sì, sì. Infatti a gennaio inizieremo a scrivere, dai, così potete vedere dove andremo a suonare. Giusto, allora citiamo un'altra volta... Andremo anche al sud, così era il programma. Andrea, citiamo un'altra volta il portale dove si può vedere le vostre notizie. facebook.com/Manetti. Benissimo. Quindi il disco nuovo si chiama Manetti, un bel disco, interessante, e sonorità, diciamo, new wave, tra virgolette, un po' di tutto, e sonorità vostre, prendete, portate avanti un discorso vostro personale, non più strumentale, ma anche cantato. Anche se, come diceva giustamente Simo, in questo pezzo c'era qualcosa di cantato, c'era qualche momento, vero? Sì, no, nel disco vecchio la voce era usata proprio così, non c'era forma canzone, era usata così a sprazzi. Il disco, quello nuovo, sì, ha tutta un'altra, cioè proprio la voce ha preso un posto preponderante. Sì, perché avete deciso di far così, è una cosa... Dimmi. Cioè, non aveva mai deciso niente, cioè in teoria lui fin dall'inizio aveva voluto cantare, solo che si rifiutava, poi prendendo confidenza ha iniziato a cantare e cioè, è successo così in maniera naturale, non è che ha detto da domani tu canti, cioè cosa... Perché Andrea ti rifiutava di cantare? Ma cioè non mi andava di suonare. E basta praticamente. Sì. Cioè... di suonare sì, chiaramente nel disco precedente, però sì, poi sì. L'idea, cioè hai cominciato a scrivere qualcosa. Cioè il tempo passa, cambiano un po' le influenze che hai, abbiamo sentito altri lavori così e abbiamo iniziato a cioè, ho iniziato a proporgli a volte anche delle canzoni così, a vedere se gli piacevano, le abbiamo sviluppate in sala e via, è uscito sto disco. Benissimo, io vi ringrazio per questa cavalcata che è durata 2 ore, sono quasi le 23, le 24, sono le 23:54 e qualche secondo. Grazie ai Manetti che sono venuti dal Lago grazie di Como per presentare il disco grazie, nuovo grazie. Che si chiama, si intitola Manetti, Manetti, che si può trovare col punto esclamativo, col punto esclamativo, distribuzione Venus, quindi si trova abbastanza frequentemente e soprattutto nei loro concerti. Con cosa ci salutiamo stasera, Manetti? Giardini is back. Benissimo, grazie a Michele Tosoni in regia. Ricordiamo che domani sera alle ore 21 ci sarà Gianluca Fantelli con Agostino per Blu Radio Sera. Grazie e buonanotte a tutti. I've got it. I've got it, take me somewhere. I've got it, I've got it, take me somewhere. You've got it. I've got it, take me somewhere. I've got it, you've got it, take me somewhere. And I want you me now, and I want you near me now, and I want you near me now, and I want you near me. Radio. Rock Wave, l'onda del rock.